Subhana Rabbi al-Aliyul A'la al-Wahhab. Sia glorificato il mio Signore l'Altissimo, il Supremo, il Donatore. Subhana Rabbi al-Aliyul A'la al-Karimul Wahhab. Sia glorificato il mio Signore l'Altissimo, il Supremo, il Generosissimo, il Donatore. Ya Wahhab subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. O Donatore, sii glorificato ogni volta che ti adoriamo come doverosa l'adorazione di te. Subhanaka ma arafna haqqa ma'rifatik. Sii glorificato ogni volta che sappiamo di te come è doveroso sapere di te. Subhanaka ma dhakarnaka haqqa dhikrik. Sii glorificato ogni volta che ti ricordiamo come è doveroso ricordarsi di te. Subhanaka ma shakarnaka haqqa shukrik. Sii glorificato ogni volta che ti ringraziamo come è doveroso il ringraziamento di te.